Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Il governo è stato battuto su una mozione della Lega, votata a larga maggioranza, che vieta per un anno l'apertura di nuovi centri per il gioco d'azzardo online e nei luoghi aperti al pubblico. Gli addetti del settore intanto si fanno sentire, così rischiano di saltare, dicono, 200.000 posti di lavoro. È un attacco feroce al mercato del gioco legale, dimenticando, qualche volta anche consapevolmente, che attaccare e quindi indebolire il mercato del gioco legale, il presidio legale del gioco, non fa che favorire gli interessi, questi sì, della criminalità organizzata. La sensazione però è che lo scontro sul gioco d'azzardo sia solo all'inizio. Siamo ancora una volta a parlare di gioco. Sì, perché è uno degli argomenti più spinosi in questo momento. Io vi riassumo il mio punto di vista, ma non è un punto di vista, non ho opinioni. Non so giocare, oltre la scopetta non sono mai andato in vita mia, non ho proprio il demone del gioco, sono pieno di vizi, ma il gioco proprio non mi ha mai preso. Quindi ne parlo con distacco e con curiosità. Mi sembra di aver capito che in realtà siamo in un paese in cui c'è una grande passione per il gioco. Ne abbiamo parlato più volte, abbiamo fatto tante trasmissioni. Il gioco acchiappa, prende gli italiani giocano, agli italiani piace scommettere. Gli italiani, popolo legato ad abitudini, gusti, passatempi provinciali, di paese, che poi sono tramutati e passati nel tempo con l'urbanizzazione, via dicendo, insomma, ha nella mente, la memoria sempre, quattro amici, uno davanti all'altro, che giocano. E si giocano non soltanto per il piacere di passare il tempo assieme, ma anche per il brivido, per la passione, per quella sorta di adrenalinica scossa che dà rischiare qualcosa a un tavolo da gioco. Andando avanti, nell'evoluzione dei tempi, gli italiani sono digitalmente alfabetizzati, ma l'hanno fatto concretizzare ed ampliare le loro passioni. La passione del pettegolezzo, la passione dell'occuparsi delle cose altrui, la passione di mostrarsi oltre quello che realmente sono, e quindi il social networking è diventata una delle più felici maniere di passare il tempo per gli italiani, tanto che siamo in questo leader, siamo leader nell'acquisto di smartphone, di telefoni portatili, di tablet, ma anche siamo leader nella passione di applicare il gioco nelle più variegate, contemporanee ed elettroniche maniere. Questo pone un problema, d'altra parte ne risolverebbe un altro, perché da quando il gioco in Italia è legalizzato, è diventato affare di Stato, il gioco porta un importante gettito nelle casse dello Stato. In un momento in cui si raggranellano soldi ovunque e da qualunque fonte possibile, quello che viene chiamato vizio è una delle maggiori e sicure fonti di approvvigionamento delle casse dello Stato. Però sorge un problema. In realtà esiste tutto un altro côté, che è quello dell'osservazione, dell'attenzione e anche della preoccupazione per quelli che di questo gioco fanno qualcosa che non è soltanto un passatempo, una maniera per concedersi comunque un lecito piacere, poi ognuno è padrone delle proprie finanze, dei propri soldi, del proprio tempo, ma diventa una vera e propria malattia. E quindi si trova un grande bivio. I giocatori in realtà, per quanto facciano schifo, ci si turi il naso, si prendono le distanze, vengono considerati una sorta di girone di peccatori, servono perché portano soldi alle casse dello Stato. I giocatori però che si ammalano di gioco diventano un problema sociale, quindi vanno curati. Quindi lo Stato non sa bene dove mettere le mani, perché da una parte sarebbe ben contento che gli italiani giocassero, d'altra parte comincia a preoccuparsi del fatto che gli italiani giocano troppo. Di fronte a questo, quali sono le soluzioni? Beh, cercheremo oggi perlomeno di porre problemi, senza avere naturalmente la presunzione di dare soluzioni. 800240024. Un'affluenza costante anche nelle sale da gioco aperte 24 ore. Il problema però è che troppo spesso i messaggi che ricordano come la dipendenza dal gioco sia una malattia e che per legge devono essere esposti su ogni slot non hanno l'effetto sperato. Noi possiamo, come se uno vede qualcuno che ha il vizio del fumo, gli dice non fumare, ma poi se uno che ha il vizio di fumare fuma. Questo nasce come un gioco, nasce come è un gioco compulsivo, quindi vive di emozioni. Il giocatore cos'è che vive? Vive il punto. Lo so, ma le emozioni non siamo certo in un paese in cui possono essere lecitamente espresse. Tutto ciò che emozione è guardato con sospetto, perché si rientra nell'area del peccato, del vizio. Poi esisterà un'oggettiva maniera per determinare quando le passioni diventano deleterie, distruttive. Una cosa è avere la passione per le avventure di tipo erotico, una cosa è strangolare le persone con le fascette serrafili. Esiste comunque una via di mezzo nell'applicazione delle passioni. 80024 0024. Qual è il vostro punto di vista? Qual è la vostra esperienza? E come vi comportate nei confronti del gioco? Vi è del tutto indifferente? Siete dei giocatori? Pensate che la soluzione alla svolta alla vita sia davanti a un gratta e vinci, davanti a un videopoker, oppure semplicemente una delle tante maniere per ammazzare il tempo, per occupare in maniera piacevole e a volte anche perigliosa la propria esistenza? Fabio Felici, buongiorno. Buongiorno. Fabio Felici, direttore Agimeg, agenzia giornalistica concorsi e scommesse. Vediamo se riusciamo a inquadrare il problema proprio istituzionale, giuridico, che io ho semplicemente lambito e raccontato in maniera fantasmagorica. Dal punto di vista della legge, come siamo messi? E siamo messi che il gioco torna ad essere non solo attaccato, come dicevi giustamente tu, da una parte, da un'altra parte torna ad essere una fonte da cui, a cui attingere per recuperare risorse. Si parla dell'IMU e risorse dovrebbero arrivare dal settore del gioco, la sanatoria sulle slot. C'è questa Quanto portano i giocatori alle casse dello Stato? 8 miliardi di euro lo scorso anno. E quando si parla di gioco in crescita bisogna correggere un attimino il tiro. Le proiezioni indicano che a fine anno dai giochi arriveranno 500 milioni in meno, perché gli italiani stanno spendendo il 6% in meno sul gioco. Quindi il gioco, perché hanno meno soldi? C'è la crisi, sicuramente è intervenuta anche sul gioco, c'è stata questa campagna un po' di demonizzazione, tutto ha fatto sì che ci fosse questo calo, e quindi mezzo miliardo di euro in meno nelle casse dello Stato, che da qualche parte dovrà andare a recuperare. Quindi la crisi si è già insinuata, e non è vero che appunto il gioco stia crescendo in maniera esponenziale. Dicevo dell'IMU, dicevo della moratoria, questa moratoria che è passata, il governo è stato battuto su questa moratoria. Quando è accaduto questo? Pochi giorni fa. C'è stato un improvviso, a sorpresa, è venuto fuori, non si sa bene perché, per una votazione, sembra ci sia la Lega che sia stato determinante in questo caso, una moratoria per cui una possibile ipotetica fonte di reddito non c'è più. Esattamente, tra l'altro la Lega la voleva ancora più dura. E cosa significa la moratoria? In che senso? Che di fatto, per esempio, si chiede al governo di non far più aprire le sale dove mettere le slot e le videolottery nei prossimi 12 mesi, ma questo comporterebbe gravi contenziosi che avevano portato alle dimissioni del sottosegretario all'economia Alberto Giorgetti, perché aveva ventilato il problema di una moratoria di questo genere dicendo: qui avremo un contenzioso con 200 concessionari che hanno già pagato per queste macchine, per aprire questi negozi. Quindi dei concessionari hanno già pagato la licenza, ma oggi non possono esercitare. Hanno già pagato le macchine. Se questa moratoria diventasse operativa, di fatto si troverebbe aver anticipato dei soldi su un'attività che non possono più svolgere, ma avremo un contenzioso con l'Europa per non rispetto della gara, avremo la possibilità di controllare meno i minori, perché non è che levando le sale non si giocherebbe più, ritornerebbero a galla macchine della criminalità organizzata come c'erano 10 anni fa nel 2004, cioè si tornerebbe all'antico, e quindi che provocherebbe solo problemi. Ma infatti il governo non lo voleva, c'è stato qualcuno che a sorpresa ha votato a favore di questa moratoria della Lega, e quindi è questa moratoria adesso ha impegnato il governo. Vedremo, perché si parla comunque di modifiche anche nei Dimmi una giorni. Cosa, Felici, voglio farti una domanda maliziosa. Se io fossi un esercente che ha pagato già la licenza, non mi fanno comunque mettere le macchinette nel mio esercizio, mi inventerei qualcos'altro. Ad esempio, prenderei 4 iPad, li metterei Perfetto. Nel mio bar e direi: giocate online. Wi-Fi libero ormai c'è dappertutto, quindi metto 4 iPad, faccio giocare con i siti esteri illegali, alle slot illegali, nessuna tutela per il giocatore, nessun incasso per lo Stato. Io esercente addirittura guadagno di più, perché pagano anche bene questi siti esteri, bisogna dirlo, quindi, perché non sono soggetti a tassazione come la nostra e tutto quanto. Quindi si tornerebbe a far gioco illegale, meno soldi per l'erario, meno tutela del giocatore, quindi diventerebbe davvero un far west. Sentiamo subito gli ascoltatori. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, sono Giuseppe da Belluno. Io ho fatto uno studio personale su questo problema, soprattutto questi anni sui casinò. Eravamo degli amici abbastanza assidui sui casinò, però si andava una volta ogni tanto, si spendeva quello che si spendeva. Quanto si spendeva? Ma all'incirca dei 500 e 1000 euro, magari ci andavi una volta al mese. Ebbene, vabbè, era un mezzo stipendio quasi, Sì, appunto. Allora, poi lì il problema è questo, secondo me. Allora, lo Stato sta diventando una sanguisuga. Sono assolutamente contrario a quello che ha detto il vostro ospite qui. Perché è vero, gettito, ma alla fine noi stiamo impoverendo la società. Cioè, una volta chi aveva dei soldi e voleva festeggiare o voleva andava una volta all'anno, una volta ogni 6 mesi, così al casinò, spendeva quello che spendeva, ebbene. Adesso c'è gente che nel dopo lavoro va nei bar, non beve neanche una birra, sta lì e si mangia fuori 30-40 euro al giorno. Ma secondo lei, scusi Giuseppe, sono una domanda, che questo esercizio sia controllato comunque dallo Stato non è un vantaggio rispetto che rientra nell'area della clandestinità, della malavita organizzata? Ma allora questa cosa è stata creata, cioè la gente non è che prima giocava clandestina. Io credo che il 90% della gente prima andava al bar, si beveva una birra. Ma è un fenomeno globale, e dal momento che esiste il gioco, la possibilità di giocare online o di giocare comunque con... Il problema secondario è questo, poi questa gente, al di là che si rovinano delle famiglie, poi non pagano le bollette, non pagano il meccanico, non pagano il venditore... Capite che stiamo impoverendo veramente la società. Giuseppe, ho capito, fermiamoci un attimo. La sua idea è che lo Stato resta una sorta di tutore, governante, educatore del cittadino e deve porre limite alla libertà del cittadino anche di esercitare ciò che viene considerato, con una lettura forse moralistica, vizio. Felici, come la pensi? Allora, voglio dire, nel 2004 i videopoker, che poi l'anno dopo furono dichiarati illegali, c'erano, non si vedevano come le macchinette adesso perché erano in salette nascoste, erano in buchi nascosti dove la gente gioca uguale. Ma si pensa che il poker, gli italiani non giocassero a poker fino a qualche anno fa, lo giocavano all'estero perché in Italia il prodotto non c'era e quindi di fatto in maniera illegale. Erano tutti giochi che venivano già fatti in Italia, solo in Italia non c'erano, si facevano all'estero, meno non soldi per l'erario, non c'era tutela del giocatore, quindi non è vero che non si facevano questi giochi, si facevano, e come adesso li controlla lo Stato con gli evidenti vantaggi. Gianpiero, buongiorno. 800 24 00 24, vedo che la passione per il gioco oppure per la crociata antivideoludica comunque ludopatica è abbastanza diffusa. Gianpiero. Sì, buongiorno. La passione ce l'ho anch'io, ma nel senso latino del termine, nel senso che io soffro a vedere tantissime persone chine, no, su questi videopoker. I ludopati. Esatto, i ludopati. Io non sono, diciamo, affetto da questo virus, però non posso fare a meno di porgere almeno uno sguardo, le dico, proprio non dico di commiserazione, e spesso vedo che a giocare sono persone che conosco benissimo e assolutamente normali, ma soprattutto per quanto riguarda la loro capacità, diciamo, di acquisto. Allora, quindi chi gioca è un malato a priori, secondo lei? È tristissimo vedere come arrivo in diventando speciale parecchie persone che addirittura avevano, cioè con delle consapevolezze, addirittura nel momento in cui entrano sono quasi attratte da una sorta di calamita. Non esiste nulla, cioè... Ma lei cosa proporrebbe? Perché la stessa calamita potrei vedergliela anche in persone con altri tipi di passioni, ma non mi sento di giudicare il mio prossimo, ognuno giusto coltiva le sue passioni. Non è una questione di giustizia. E lei cosa proporrebbe, però? Io proporrei, no, visto che lo Stato quando vuole lo Stato è capacissimo, diciamo così, di interferire nelle vite private a rispetto della privacy. In questo caso potrebbe fare una cosa molto utile, diciamo, facendo in modo che uno che voglia giocare ai videopoker debba inserire per forza in un lettore di potrebbe essere il tesserino sanitario. A questo punto viene identificato e avrebbe un tetto massimo spendibile nell'arco della giornata, visto che sono collegati in modo telematico. Sì, ho capito esattamente come funziona per i distributori di sigarette. Guardi, ne ho uno sotto il portone di casa, la sera vedo come arrivano 50 ragazzette con una tesserina, se ne approfittano tutti. Felice, sì, quest'ultima cosa. Ha anticipato quello che succederà con le New Slot 3, difatti i nuovi apparecchi che i concessionari dovranno montare, è previsto l'inserimento di una scheda di riconoscimento tipo la tessera sanitaria, questo già per impedire ai minori di giocare, perché se la tessera sanitaria... È relativo l'impedimento, perché io prendo quella di mio nonno, dico vado a comprarti i pannoloni e poi vado a giocare. Comunque in qualche modo c'è rintracciabili i soldi spesi da il proprietario di questa testa tenere, quindi in ogni caso ci sarebbe più controllo. Ma ricordiamoci che ad esempio il poker online, tu puoi decidere al momento che ti iscrivi a giocare su questo tavolo virtuale quanti soldi vuoi spendere, e tu ti dici io voglio spendere questo mese 500 euro, se superi quella soglia la macchina ti blocca. Maurizio Fiasco, buongiorno. Buongiorno a voi. Maurizio Fiasco, sociologo, ha 15 anni. Sociologo, studia il fenomeno del gioco d'azzardo per la Consulta Nazionale Antiusura. Vista così, sembra quasi che la soluzione sia in tasca, liberalizziamo il gioco, mettiamo la tessera sanitaria, in fondo i ludopati sono persone che sono cercate. Ma è esattamente così o c'è, diciamo, un'articolazione più complessa rispetto a questo problema? Ma ci vogliamo togliere qualche curiosità, visto anche il tono divertente, serio e lieve della trasmissione. La prima cosa era detta Fabio, dice gli italiani spendono di meno, ma in realtà sono i biscazzieri che sono giocati dal gioco, cioè stanno vendendo il gioco sotto costo, perché le monetine che gli italiani infilano nel gioco aumentano. Quello che i concessionari, mi scuso per l'espressione, costa meno giocare, diciamo. Diciamo che per farli stare più tempo al gioco e quindi per continuare a trattare la frustrazione del giocatore sconfitto, gli devono ogni tanto dare una piccola somma. Ma avveniva con l'eroina negli anni 70 e 80, la stessa cosa? No, è cambiato un po' il sistema, perché se non si capisce questo non ci si leva la curiosità. Per esempio, una delle curiosità è che gli italiani spendono di più per il gioco ma vincono sempre di meno. Nel senso, considerando vincita non una restituzione equivalente al biglietto che hai pagato per entrare nel gioco, ma una somma che tu cognitivamente consideri rilevante, una somma superiore ai 500 euro. Bene, nel 2012 la somma delle vincite superiori ai 500 euro è stata esattamente la metà della somma analoga vinta nel 1994, quando si giocava circa un decimo di quello che si è giocato l'anno scorso. Quindi c'è, diciamo, un disegno industriale molto preciso. Esatto, è sparita la fortuna, è sparita la passione, è sparita la fantasia, è sparito il pensiero magico, e ahimè adesso anche i concessionari sono giocati dal gioco esattamente come lo Stato. Scusi Fiasco, le ripeto, è come avveniva negli anni del boom dell'eroina, che a un certo punto la vendevano sotto costo, esatto, si abbassava sul mercato, pigliavano più persone, una volta dentro, e così la vede lei. Mi tira dentro un'affermazione che a questo punto la faccio in modo netto: questo è un sistema che funziona arruolando alla dipendenza del gioco d'azzardo il più possibile la popolazione italiana, perché altrimenti collasserebbe. Cioè, se la popolazione che confluisce nel novero della popolazione dipendente, come diceva il nostro ascoltatore, compulsiva, se questo trend diminuisse, verrebbe meno la macchina del gioco. Questa è una macchina costruita sull'arruolamento alla dipendenza di gioco d'azzardo di milioni di persone. Però se noi la vediamo come un qualsiasi altro prodotto, non è così naturalmente, per assurdo anche chi vende telefonini, chi vende merendine, chi vende formaggi con la goccia, la stessa maniera cerca di allargare e portare dentro il più possibile i suoi possibili fruitori, clienti, di modo che di mantenere vivo il mercato. Se si saturerebbe il mercato del gioco, non sarebbe più un mercato. Se segue le regole del mercato, sì, anche quello del gioco, è così. Poi vediamo l'aspetto negativo di questo. Io non sto facendo un discorso sull'aspetto negativo, ma infatti c'è un'analogia con quello che lei dice, perché nella telefonia stanno vendendo sotto costo. La differenza è che dietro la telefonia c'è un grosso progetto industriale e ci sono milioni di persone che ci lavorano. Quindi è chiaro che una recessione nel campo della telefonia avrebbe degli effetti sociali pazzeschi. Del gioco, il gioco industriale di massa che si sta affermando si basa su una riduzione progressiva degli occupati, perché 14 miliardi di spesa del gioco sui casinò online che è avvenuto l'anno scorso, casinò poker, chiamiamoli come vogliamo, hanno ridotto l'occupazione dei giochi d'azzardo che avvengono nelle sale da gioco nei quartieri. Quindi è già una macchina che induce a spendere, a mettere sempre più soldi nel sistema, a ridurre l'occupazione, a ridurre i margini per i concessionari, a ridurre i margini per lo Stato, perché Fabio l'ha detto, l'anno scorso lo Stato ha incassato 8 miliardi, ma nel 2010 ne incassò 10, quindi già ne ha persi 2. Quest'anno ne ma chi ci guadagna allora, scusi Fiasco, in tutto questo, chi ci guadagna? Allora apriamo un nuovo scenario, chi ci guadagna? Qui il business è un business derivato sull'azzardo, ha presente l'espressione derivato, certo. Derivato, derivati finanziari, cioè è all'inizio della nostra crisi. Esattamente, il baricentro dell'affare si è spostato dalla contabilità, dai conti netti dei concessionari, dello Stato, dell'amministrazione fiscale, sulla finanza derivata che è stata costruita sul gioco, perché i concessionari si sono indebitati per entrare nel gioco. Il gioco è redditizio, ma se non hai soldi tuoi te li devi far prestare, e per farteli prestare devi pagare un interesse, qualcuno è interessato a offrirti dei soldi in prestito, poi devi pagare le rate per questi debiti che hai contratto pur facendo il concessionario, e quindi che cosa fai? Emetti dei bond, emetti dei derivati sul tuo debito che non servono a finanziare l'investimento ma a pagare i debiti. Ma già ne esistono questi derivati? Stiamo andando all'analogo dei mutui subprime degli Stati Uniti. Il gioco d'azzardo sarà la nostra bolla finanziaria, che non è un caso che l'Italia non riprende nell'ambito dell'Europa, tutti, c'è la ripresa, ripresini i consumi, eccetera, i tagli di consumi ristagnano, vanno a picco, si costruisce questo giochetto finanziario, perché lì è il busillis, lì c'è il business vero. Quindi anche la moratoria ce la possiamo spiegare in questa ottica? Sono molto malizioso in questa domanda. Ma non lo so se il mandato di quelli che hanno votato per la moratoria fosse questo, io questo non lo so, non sono un politico, non riesco a interpretarlo, però vedo che sullo sfondo ci sarà poi una contromisura perché questa moratoria non si faccia, perché poi le banche hanno prestato i soldi ai concessionari e devono rientrare, e per rientrare i concessionari devono allargare sempre di più il numero di quelli che giocano. Ma fermo un attimo, Fiasco. Melog. La realtà condivisa. L'Italia è il primo paese in Europa e il terzo nel mondo per quantità di denaro fatturato attraverso i giochi. Le stime parlano di 800.000 italiani dipendenti dal gioco d'azzardo e un giro d'affari che solo nel 2011 ha superato i 79 miliardi di euro all'anno. Di questi 79, 61 vengono restituiti in vincite e dei 18 che restano, 9 finiscono nelle tasche dello Stato. 800240024, abbiamo toccato il tema, il grande tema del gioco e gli italiani, e vengono sempre fuori degli aspetti nuovi, più complessi, più interessanti da approfondire. È difficile fare una lettura manichea, nel senso il gioco è brutto, fa male, peccato, va vietato, oppure massima libertà, vorremmo essere, perlomeno ambiamo a essere, perlomeno alcuni ambiscono e sperano di poter vivere in uno stato laico che non si preoccupa di quella che è la tenuta morale o la frequentazione viziosa da parte dei suoi cittadini, ma si limita che applichino le leggi e le norme. Andrea, buongiorno. Andrea. Allora, io mi ricollegavo al vostro argomento, un libro che ho letto qualche anno fa, Finzioni di Borges, Luis Borges, dove sono dei piccoli racconti, tra i quali c'è la Lotteria Babilonia, dove ipotizzano, si tratta chiaramente di fantasia, dove le vincite possono essere positive ma anche negative, della serie, puoi vincere, puoi vincere una somma in denaro oppure andare in galera, esempio, no? Tanto che poi si ipotizza anche se chi è in galera può continuare a giocare, perché si può anche vincere l'uscita, è tipo Monopoli, no? Imprevisti, probabilità, quelle cose lì. Molto interessante, perché mette in luce proprio i paradossi del gioco d'azzardo, no? E tra l'altro Borges, insomma, non serve che spieghi chi sia, insomma, è uno dei più grandi autori del Novecento, per cui merita la citazione e anche la lettura, perché è molto veramente molto, sì, ma applicato alla realtà. Ma la realtà, sono la realtà. Un grande e profondo ammiratore e stimatore di Borges, però da questo punto di vista la vedo poco applicabile. Ha scritto cose fantastiche, ma labirintiche nella loro lettura. Qua vogliamo invece far chiarezza, esattamente. Ma la realtà, del resto, basta guardare per esempio il CERT, no? Che era chi si occupava delle tossicodipendenze, adesso si chiama CERD. Non più delle tossicodipendenze, ma delle dipendenze in genere, tra cui il gioco d'azzardo. Quindi, no? Lei, diciamo, secondo lei, sì, lo Stato dovrebbe essere una sorta di padre spirituale degli italiani e dire il gioco è un'attività negativa e diabolica, non devi giocare, questo è il senso. No, è che ci si illude che sia solo positivo, in realtà. No, nessuno si illude, figuriamoci. Quindi voglio dire, Borges è stato anche un po' profeta di questa tipologia. Sì, vabbè, ma chiunque ha sempre condannato i vizi dell'umanità. Ma un conto è condannarlo, un conto è vederci. Sì, ma vale anche per l'uso non legato alla procreazione del sesso, vale anche per il fumo, per tante attività che danno un gran gusto, ma che in realtà, lette secondo un codice morale, sono detestabili. Ma lo Stato questo deve fare, secondo lei? Eleonora, buongiorno. Buongiorno. Allora, io di professione faccio la blogger e la social media manager, e quindi gestisco per dei clienti in maniera da freelance pagine Facebook. I social media di alcuni clienti. Esatto, e sono stata contattata tramite LinkedIn da questo un pokerista molto conosciuto per chi, insomma, frequenta, gioca, eccetera, e mi ha chiesto di lavorare per lui, quindi soprattutto... Diciamo, è un'area web dove la gente mette i suoi curricula e si fanno proposte di lavoro, proposte LinkedIn, di... LinkedIn, sì, sì, esatto. Lo spiego per il nostro pubblico, che non sempre digitalmente avanzato. Quindi l'hanno cercata una persona, dicendo mi servi per fare un certo lavoro. Esatto, e io dovevo in poche parole, tramite anche pubblicità su Facebook, trovare dei nuovi giocatori, dei nuovi acquirenti. Premetto, questo è tutto legale ovviamente, certo, si inseriscono dei parametri entro i quali possono rientrare delle persone interessate al gioco online. Queste persone, cliccando mi piace su questa fanpage, venivano... insomma, a queste persone veniva dato un codice e con cui potevano avere un buono per iniziare a giocare su questo sito di gioco online. Beh, poker, la stessa cosa se lei avesse venduto shampoo e fine settimana in delle spa, sarebbe la stessa cosa. In teoria doveva essere così, però mi sono resa conto che venivo pagata bene e tutto quanto, ma mi sono resa conto che col passare delle settimane avevo un senso di colpa che mi si divorava e quindi ho deciso a un certo punto, dopo un mese e mezzo, due, di interrompere la collaborazione. Ma se l'avessero chiesto la stessa prestazione per un sito di escort, avrebbe avuto lo stesso senso di colpa? Probabilmente no, perché non lo reputo un vizio. È strano che siano così avanti, insomma, non so se se siti di escort si servano di... Assolutamente, guardi, se lei è nel mestiere, le comincia a vedere che su Facebook cominciano ad arrivare degli spam di fantastiche signorine che ti chiedono di essere mio amico. Non so se arrivano soltanto agli uomini, che stranamente... Probabile di sì. Vengono da paesi strani e chiedono cose strane, però sta avvenendo, lo spam erotico è entrato nei social media. Bene, allora devo ampliare il mio raggio d'azione. Va bene, è molto chiaro questo. Professor Maurizio Simmarco, buongiorno. Pronto? Non so, mi hanno messo una persona che non c'entra nulla, evidentemente. Ah, buongiorno. Ecco, buongiorno, mi scusi, no, avevo qualche... Sì, è un ascoltatore, professore Simmarco, che ci chiama sotto forma di ascoltatore. Sì, assolutamente sono un ascoltatore per segnalare un punto, che ci sono tantissimi studi su questo gambling. Lei è un docente di biologia molecolare alla Sapienza. Sì, sono un medico e mi occupo di medicina personalizzata e quindi di profili genomici che predispongono a varie cose, che ne sono la reazione a un farmaco. Ce ne sono. Quindi nasciamo già con il codice genetico il demone del gioco, secondo lei? No, non è che abbiamo una propensione a diventare dipendenti, questo non secondo me, secondo la letteratura. E che cosa succede? Maggiore è l'offerta, maggiore è la possibilità che si riconoscano nelle popolazioni quelli che sono potenzialmente dipendenti. Cioè, che succede? Io non divento dipendente se non incontro una cosa e se non la incontro tante volte facilmente. E quindi stiamo semplicemente tirando fuori dalla popolazione tutti quelli che hanno la propensione a diventare dipendenti dal gioco d'azzardo. Consideri che ci sono tanti profili di dipendenza, abbiamo profili di dipendenza da psicologica, intendo, anche dagli oppioidi, su alcune popolazioni indiane questa cosa è studiatissima. Ecco, ci sono queste descrizioni in letteratura di quello che si chiama il gambling, dove poi si dice che il soggetto, una volta che ha incontrato questa cosa, non è più libero di scegliere. E noi su questo dobbiamo fare una riflessione. Ma lei dal punto di vista clinico cosa vorrebbe? Uno screening di massa e portare la mappa di genetica? Ma questo no. Non deve essere la scienza che dà una soluzione. È la politica che deve avere una soluzione. Sapendo che nella sua popolazione c'è una possibilità di tirar fuori tutti quelli che sono dipendenti, i quali poi non giocheranno più liberamente per piacere, allora se io ho un'offerta capillare e ho un'offerta sin dai primissimi anni dello sviluppo di un individuo, è ovvio che mi troverò a selezionare tutti. Quello che dice lei, diciamo, a letteratura scientifica che lo attesti che, come sì, realtà. Sì, assolutamente sì, però abbiamo... Non è un'ipotesi. Questo però cosa porterebbe? A uno stato proibizionista, dovrebbe dire, siccome... Ma uno stato che si difende, uno stato che limita. Io non penso, no, guardi, il proibizionismo non serve assolutamente a nulla, né nella scienza, né no, mai, perché non è quello il punto è un altro. Bisogna avere il principio di cautela, cioè io posso offrire il gioco d'azzardo, però oggi noi lo stiamo offrendo in maniera esagerata e capillarmente ed anche in, diciamo, sempre su strati più giovani della popolazione. In questo modo ci troveremo a tirarli fuori tutti quelli che potenzialmente sono dipendenti. E questo forse sono dei numeri che poi sul lungo periodo pagheremo in termini si di... Si fermi, professore, interessante, diciamo, questo contributo inaspettato ci viene dal pubblico, ma abbiamo un pubblico molto qualificato. Quindi il professore di biologia molecolare dice che esiste nella nostra mappa genetica una propensione che lì dorme tranquilla, se qualcuno la sollecita con stimoli esterni la assecondiamo e possiamo diventare dei dipendenti. Matteo Iori, buongiorno. Buongiorno. Matteo Iori, presidente del CONAGGA, Coordinamento Nazionale Gruppo per Giocatori d'Azzardo. Voi coordinate giocatori d'azzardo. Lei, qual è innanzitutto la sua reazione a fronte della telefonata del professor Simmagro che ci ha chiamato? Assolutamente d'accordo, nel senso, sappiamo da tempo che maggiore l'offerta, maggiore la possibilità di creare dipendenza nella popolazione, quindi condivido pienamente quanto ha detto il professore Simmagro. Anche sul fatto del fatto che si sta creando, se non ho capito male la sua opinione, un eccessivo moralismo, però nel senso, adesso sembra paradossale che lo dica io, però mi sembra che lo scontro sul gioco d'azzardo stia diventando sempre più ideologico e diventa difficilmente costruttivo. Sì, sta scivolando un po' sul piano etico, questo è vero. Esatto. È vero. Quindi si sentono sempre più parole come il demone del gioco, il vizio, si parla di proibizionismo, cose che difficilmente porteranno a una soluzione costruttiva che sia logica, razionale. Quando si va sull'etica diventa, secondo me, difficile. Ecco, ma perché i giocatori d'azzardo si riuniscono in un coordinamento? Si aspetta? Noi non coordiniamo i giocatori d'azzardo, coordiniamo molte realtà italiane, tutte no profit, che hanno deciso di aiutare gratuitamente i giocatori d'azzardo, perché se lo Stato ancora oggi non dà delle risposte di aiuto, per fortuna alcune realtà in giro per l'Italia hanno messo proprio energie per farle, quindi ci sono dei gruppi per aiutare i giocatori e i loro familiari sul territorio, e questi gruppi accolgono. Voi siete, diciamo, le croce rossine sul campo di battaglia dei poveri giocatori, alla fine è questo. Oddio, le croce rossine non siamo croce rossine, diciamo, vanno a raccogliere i feriti e danno gli ultimi conforti. Noi lavoriamo con le persone ferite, patologiche, malate, quelli che arrivano a noi, una minima parte ovviamente, in Italia sono molti molti di più, anche se anche su questo spesso ci sono dei numeri a mio avviso esagerati sulla patologia. Voi stesso nel servizio vostro, adesso mi permetto una critica costruttiva, parlavate di quello di cui parlano tutti i mass media, dicendo 800.000 italiani dipendenti dal gioco d'azzardo. A mio avviso è un numero eccessivo, ma lo dicono le ricerche, che le ricerche un po' più autorevoli, che sono meno, ma anche se si parla di 400.000 dipendenti dal gioco d'azzardo e altre centinaia di migliaia ad alto rischio, sono comunque numeri importanti, anzi pari praticamente a quelli che sono stimati in tutta Italia dipendenti da eroina, cocaina, cannabis, eccetera. E quindi lei dal suo punto di vista dice che in realtà il problema c'è, è inutile sottostimarlo e sottovalutarlo, possiamo riderci, sorriderci, dire ognuno fa della sua vita quello che vuole, ma in realtà la ludopatia, sulla quale io molto spesso ho ironizzato, ho cercato di sdrammatizzare, però è un problema reale, concreto. Melog, la realtà condivisa. .800240024, vi dico una cosa, io tratto da anni, anzi fra un po' festeggio 30 anni al microfono, a ottobre sono 30 anni che sto al microfono, ho trattato tutti gli argomenti possibili dello scibile umano, ma mai quando parlo di gioco sento una così potente reazione e partecipazione da parte del pubblico, quindi veramente c'è un profondo e radicale rimosso in tutto questo. Allora, Fabio Felice, andiamo alla conclusione, cominciamo a toccare i punti, perlomeno a chiarirli. Maurizio Fiasco, adesso sentiremo poco fa, un sociologo, ha dato un'immagine molto spaventosa e spaventevole di quello che potrebbe essere la grande bolla finanziaria che sta dietro il gioco. Su questo cos'è da dire? Io non sono così apocalittico come il buon Maurizio, cui faccio i complimenti. Abbiamo chiamato entrambi insieme, infatti. Cioè, no, però io non è che togliendo il tappo del gioco in Italia l'Italia affonda, io non la vedo così. Vedo che si è inventato poco anche nel gioco. 8 miliardi in meno non è che proprio uno scherzo. No, lo so, ma diciamo questa bolla che potrebbe portare l'Italia a una crisi irreversibile. Io dicevo, in Italia si è inventato poco, perché i giochi con il payout più alto, che danno più al giocatore, quindi si gioca di più ma lo Stato incassa meno, è solo averli importati dall'estero, come succede in Inghilterra, dove nessuno chiede la testa della regina se ci sono, qua c'è qualche slot dentro i pub, cioè nessuno fa queste campagne di demonizzazione che ci sono. Vedo tanti interventi a sfavore del gioco ma nessuno propone soluzioni. Il professore di biologia, di genetica, ha detto una cosa invece giusta, secondo me bisogna ridurre un po', bisogna ridurre meno macchine sul territorio, meno offerta di gioco, un anno sabbatico non farebbe male a questo settore, e ci stanno pensando, tra l'altro voglio ricordare, cioè, fermiamo tutto per un anno, fermiamo, lasciamo continuare quello che è in essere senza nuove proposte. Questo non sarebbe male. Le macchine, c'è già un progetto per ridurle, e voglio dire che le società sono le prime a essere interessate che il giocatore non si rovini, anche se sembra molto cinico, entriamo in un cinismo puro, però ci sono sportelli aperti per controllare il gioco, sportelli online, quindi già di fatto esiste. E ultima cosa, non bisogna sparare cifre sui ludopatici, perché non esistono, non ce ne sono. Si fanno delle stime, si fanno delle ricerche, ma un malato di uno che ha il cancro ai polmoni perché si è ammalato di fumo, si contano in ospedale. Qui non si può contare la gente che è ammalata di gioco, quindi le cifre bisogna andarci cauti. 600.000, 60.000, 600 persone che si sono curate l'anno scorso, come dice qualcuno, chi poco chi tanto, ma non ci sono cifre ufficiali. Maurizio Fiasco, allora, sociologo, studia da 15 anni questo fenomeno per la Consulta Nazionale Antiusura. Vediamo se riusciamo a trarre qualche piccola conclusione. Lei è d'accordo innanzitutto sulla impossibilità di dare cifre esatte sulla ludopatia, che è il grande spettro a fronte di ogni discussione possiamo fare su un piano razionale? Ma certo, perché se noi non avessimo un sistema di rilevazione delle precipitazioni atmosferiche, non sapremmo neanche quanta pioggia c'è in Italia. Noi non sappiamo quanti sono i giocatori d'azzardo patologici per un motivo insormontabile, non ci sono i servizi. Le posso dire una cosa, scusi, mi spiace tirare fuori argomenti che mi toccano personalmente. In Italia non si sa nemmeno quanti sono gli autistici, è la prima causa d'handicap. Appunto, non si sa quanti sono gli autistici. Appunto, non essendo Sfiguriamoci i ludopatici, che è una cosa così, appunto, così eterea. Certo, non essendoci il servizio crea la domanda, creandosi la domanda si forma il dato e noi possiamo apprezzare un fenomeno. Se non, finché non ci saranno i servizi, noi potremmo dire non si sa, è impossibile da sapere. Certo, se non si lavora, la nostra conoscenza è sempre una conoscenza pragmatica, non è una conoscenza ispirata da chissà che cosa. E questa è la prima cosa. Noi abbiamo delle premesse di tipo scientifico, queste premesse non sono applicabili perché appunto mancano i servizi. La prima cosa. La seconda cosa, è interessante questa notazione della blogger sul giocatore che offriva. Allora, intanto chiariamo una cosa, non esiste campione di poker che si è arricchito con il poker. I campioni di poker si sono arricchiti con il business derivato, cioè facendo lo specchietto per le allodole, invitando altre persone a sfidarli, e lì hanno poi con le poker, con le case di poker, hanno stabilito un compenso, un cachet. Diventano delle star come gli chef. Diventano delle star. Terza cosa, si è entrati tutti nel gioco senza aver scritto le regole per uscire dal gioco. Adesso mi incuriosisce questa proposta della moratoria, perché la moratoria può provocare l'effetto domino, nel senso, la banca A non riesce a rientrare dei soldi che ha prestato al concessionario B, il concessionario B non può rientrare perché non ha allargato il giro, quindi ha potuto contare su questo flusso di cassa, di questi soldi che entrano ed escono, da cui ricava un interesse attivo che compensa l'interesse passivo che ha dovuto pagare la banca. Altra cosa, ultimo dato, la passione. Beh, questi sono i meccanismi che l'usura organizzata ha sempre applicato in altri campi professionali, per poi. Ma anche la finanza d'azzardo, perché c'è la cosa che mi ha sconcertato. Io purtroppo sono 15 anni che studio questa cosa e non riesco a uscire dal gioco di studiare il gioco, perché ogni volta scopro una cosa diversa. I meccanismi del gioco finanziario azzardato presentano delle analogie spaventose con quelli del gioco d'azzardo, del gioco di Alea. Dice, ha spiegata il professore che è intervenuto prima, evidentemente le trappole dal punto di vista cognitivo, dal punto di vista del nostro sistema Pronto? Un attimo solo, se riprendete perché vedo con la telefonata è piuttosto, sento qualche ascoltatore, così facciamo in tempo a concludere. Alessandro, buongiorno. Alessandro? Sì, eccomi qua. Lavora in sala scommesse. Esatto. Io volevo sottolineare un aspetto sociale della questione, no? Al di là del fatto che sono d'accordissimo con quel professore che il diffondersi delle macchinette chiaramente porta a giocare mia madre, per dire, a comprare le sigarette e vedere le cose. Mi parli della sua esperienza, visto che lavora nel settore. Ecco, l'aspetto sociale, volevo dire, io lavoro in città, in città di provincia. E cosa vede? E le sale scommesse, essendo aperte per molte ore al giorno, fino a tardi, tutti i giorni, è diventato quello che era il bar del paese una volta. Cioè adesso nel bar del paese non ci si ritrova più. Non si può, la sera non si può bere perché non si può poi guidare, anche senza ubriacarsi. Per cui la sala scommessa è diventato il ritrovo era il classico ritrovo del, prima di rincasare, una volta si lasciava la fidanzata, si andava al bar del paese, adesso si parte in sala alle scommesse, si passa di là. Vabbè, si andava a abbrutire comunque al bar di paese, né? Si andava a bere il vino con altri abbrutiti peggio che noi, quindi non è che era proprio una delle attività gratificanti, lasciare la fidanzata o la moglie, vado al bar, come Homer Simpson che va nella birreria di Bo e s'ubriaca, escono ubriachi, vomitano e ruttano. Alessandro. Alessandro, a lei, allora Andrea. Buongiorno a tutti. Sì. Io sono un operatore del settore, quindi sono uno di quelli che viene definito manager di una delle aziende, diciamo, coinvolte nel gioco. Nel mio caso principalmente online, ma ovviamente seguo tutto il settore. Alcuni concetti che veloci che vorrei... Si lascio concludere a lei, sia veloce, conclude lei. Allora, la cifra di 800.000 giocatori indicati come dipendenti, in realtà il Politecnico ha stimato questa cifra nell'essere i giocatori attivi sul mese, fondamentalmente. Quindi quelli che ne facciano una, ne facciano 100, in un mese vengono identificati come quelli attivi. Perfetto, su questo abbiamo capito che il dato è incerto. La sua soluzione quale sarebbe, visto che lei sta dentro? La soluzione fondamentalmente è, quindi, la prima, quella portata dai monopoli per quanto riguarda online. Se non me la dai, la taglio, questa è la sigla, non mi ha dato la soluzione, evidentemente è molto difficile, la prende troppo alla lunga. Ci sentiamo domani, grazie Fabio Felici, grazie Maurizio Frasco, torneremo sul gioco se avremo tempo.